L'importanza di questo salone è, direi, planetaria, perché il salone come questo, e soprattutto l'Euroluce come questo, non ha manifestazioni che gli vanno minimamente vicine, né per ampiezza né per profondità dell'offerta che viene rappresentata qui. E per quanto riguarda invece il 2011, che percezione avete, insomma, del primo trimestre comunque passato? Abbiamo una percezione discretamente positiva, noi continuiamo a viaggiare su delle crescite importanti che sono quelle che abbiamo realizzato nel 2010 sul 2009, nel 2010 abbiamo chiuso a più 25 e nel primo trimestre stiamo più o meno confermando lo stesso trend. Ci sono però dei segnali che non ci lasciano pensare che stiamo andando in discesa, cioè mantenere 25 a fine anno sarà una cosa così come bere un bicchiere d'acqua. Una grande azienda come la vostra, come si pone a queste tematiche della ricerca finalizzata al risparmio energetico, finalizzata a una qualità della vita differente? Dunque, noi abbiamo un approccio un pochino particolare, questa cosa sta diventando sempre più evidente rispetto a... noi siamo più gente di prodotto. Siamo un'azienda di idee, di design, siamo più attratti da questi concetti e poi nello sviluppare idee e design rischiamo di trovarci davanti a delle scelte e in questo caso naturalmente noi siamo ben felici di orientare i nostri sviluppi in un senso che dia il suo peso anche al risparmio energetico o a temi di questo tipo. D'altro canto noi siamo fra quelli, noi in steso non solo Foscarini ma credo tutta la luce decorativa, che hanno subito questa, che io credo che si possa definire inganno, della sottrazione delle fonti luminose cosiddette non economiche dal punto di vista dell'impatto ambientale e che quindi ci troviamo ad operare in un mercato che ha fatto sparire determinate fonti luminose tradizionali senza sostituirle, creando una gran confusione, una difficoltà a tutti i livelli, sì, ma finché la nostra è il nostro mestiere, cioè è il nostro lavoro. Io credo che ci sia una grande confusione anche a livello del consumatore finale, di quello che acquista, che non capisce più cosa sta comprando. E questo noi lo vediamo anche perché il mercato è stato assolutamente posto in una condizione di grandissima confusione. Ci sono sul mercato lampadine cosiddette a risparmio, che su cui poi potremmo aprire altri ragionamenti, perché lampadine a fluorescenza in realtà alla fine, fatto un equilibrio generale, non sono affatto a risparmio, quindi anche quello è un grande inganno. Ma soprattutto ci sono lampadine che sono di qualità assolutamente infima, spesso pericolose addirittura, di sicuro non all'altezza tecnologica di quello che un nostro, per esempio, acquirente può aver acquistato. Noi lo vediamo perché abbiamo delle persone che si mettono in contatto addirittura con noi sostenendo che le loro lampade non forniscono più le stesse prestazioni che erano abituati a vedere o hanno degli effetti collaterali da tutta la parte elettronica che non erano abituati a sentire. Perché c'è stata questa grande confusione sul mercato, non c'è se non un rombo di fondo nei confronti del consumatore finale riguardo a queste fonti luminose e quindi uno compra quello che trova e quello che trova spesso non è all'altezza. A volte compromette appunto l'elettronica che è dietro, nascosta, ma c'è dietro la grande maggioranza degli apparecchi, ma soprattutto compromette nella grande maggioranza dei casi l'effetto che è quello che noi vendiamo. Con questo non voglio dire che i temi del risparmio energetico o dell'attenzione non ci interessino, anzi, ripeto, noi viviamo anche noi su questo pianeta. Solo che non ci sembra che la strada che è stata imboccata abbia un grande senso, né dal punto di vista pratico, perché il bilancio energetico alla fine mi sembra che non sia affatto vantaggioso, se si va a vedere bene le cose. Siamo sempre molto sorpresi che si sia cominciato dall'illuminazione invece che da altre voci che sono responsabili di ben altri impatti su questi temi e quindi, diciamo, mettendo insieme un po' di cose rimane un po' difficile credere che non ci sia proprio qualche cos'altro di dietro.